A tempo di sport. E allora buon pomeriggio in un sabato ricco di sport che vi racconteremo, ma che vogliamo iniziare inviando un pensiero a Pino Colombi, un collega e un amico per tanti anni di Radio 24 e di A Tempo di Sport dalla sua Parma, un collega che nelle scorse ore ci ha prematuramente lasciati, ha lasciato nel dolore la sua famiglia e che oggi vogliamo ricordare. Prima di tuffarci, come di consueto, come tutti i giorni e come soprattutto nel fine settimana, nell'attualità lo impone del resto la legge dello sport, oggi e domani si celebra il ritorno del campionato di Serie A dopo la pausa per le nazionali. Ci sono molti temi, molti spunti a partire da Milan-Atalanta di questa sera. Io vi ricordo rapidamente i contatti perché abbiamo un ospite d'onore già collegato con noi. I contatti sono 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, oppure se volete scriverci su Twitter @ tutti convocati. Giovanni Capuano in studio, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Buon pomeriggio al presidente del Torino Urbano Cairo. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie dell'invito. Buon pomeriggio presidente, vigilia di Torino-Inter, per questo l'abbiamo chiamata, perché forse la partita con il Pescara è stato un po' l'antipasto, è proprio questa vigilia, la vigilia di una sfida di cartello contro un'avversaria di nome, quello che per 3 anni è mancato a lei, alla gente del Torino, o sbagliamo? Sicuramente sì, diciamo che abbiamo avuto 3 anni di purgatorio, fortunatamente poi lo scorso anno siamo riusciti a fare un campionato all'altezza della zona del Toro in qualche modo, perché siamo ritornati per bene in Serie A. Adesso abbiamo cominciato direi bene, però insomma poi il campionato è molto lungo e quindi oggi non bisogna neanche, come dire, essere troppo euforici. È importante invece cercare di mantenere quelle che sono le caratteristiche che abbiamo creato l'anno scorso, cioè di una squadra che ha voglia di fare gioco e di una squadra che ha voglia di giocare da squadra, aiutandosi l'un l'altro ed evitando magari i personalismi, invece puntando molto su quello che è la compattezza della squadra, che, come dire, sembra una frase fatta, ma quando riesci a ottenerla veramente è qualcosa di molto importante che ti può dare un grande valore aggiunto. Sottolineiamo che il Torino è partito bene in questa stagione, la vittoria col Pescara diciamo vi ha consentito di rompere il ghiaccio in fretta. A me piacerebbe però capire da lei quali sono le sue emozioni, lei che a Torino è stato amato, poi anche contestato, ha ammesso in passato di aver fatto anche degli errori, cioè come vive questa vigilia? Ma sinceramente la vivo serenamente, sarà una partita per noi certamente importante, con un pubblico straordinario, perché faremo credo l'esaurito e credo addirittura il record per noi all'Olimpico, quindi insomma direi che le premesse sono buone. Poi però l'importante adesso è fondamentale che i giocatori vadano in campo facendo le cose che hanno imparato a fare in questo anno e mezzo, e cioè giocare la palla, giocare a calcio come ha insegnato giustamente Ventura, e devo dire molto bene a un gruppo di giocatori che hanno avuto grande disponibilità e hanno veramente voluto imparare quel tipo di gioco che stanno applicando direi molto bene adesso. E devo dire anche i nuovi sono entrati molto bene, si sono molto amalgamati, comincia ad esserci uno zoccolo duro che è una cosa importante, quindi io credo che, come dire, è una partita importante che va vissuta però serenamente, cercando di fare in questa partita come nelle altre quello che è giusto fare, cioè giocare a calcio e cercare di, come dire, non buttare mai via la palla, cercare di imporre il gioco dandosi però chiaramente, come è successo, una grande mano tutti e lottando tutti, perché poi non è una squadra offensivo difensiva, cioè tutti devono offendere e difendere quando è il momento. Lei una firma sul pareggio la metterebbe, presidente Cairo? Ma guardi, io credo che adesso, come dire, non mi piace mai firmare nulla, credo che la cosa che conta per noi oggi è di scendere in campo facendo le cose che abbiamo fatto per un anno e mezzo e che proviamo tutte le settimane e poi facendo quelle cose, come dire, il risultato sarà una conseguenza, cioè se le faremo bene, le applicheremo bene, credo che potremo fare bene, quindi poi puntare anche puntare alla vittoria, sicuramente sì, perché no, ma insomma poi quello che il risultato che conseguirà sarà veramente la conseguenza di quello che abbiamo fatto. Però firmare il pareggio adesso no, vediamo come va la partita, poi dopo la partita vedremo se l'avremo fatto bene. la squadra e la Toro come abbiamo fatto l'anno scorso e come sta facendo in questo inizio campionato. Intanto un rapidissimo aggiornamento dal tennis, perché purtroppo è appena finito il doppio e la coppia cilena Aguilar Capdeville ha battuto i nostri Bracciali e Seppi in 4-7, dunque Italia avanti 2-1, ma sarà decisiva la giornata di domani. Presidente Cairo, che effetto fa essere vicini di casa della Juventus che è tornata a vincere? È un ruolo scomodo? Beh, diciamo che la Juventus dopo un po' di anni di difficoltà ha fatto le cose giuste, ha sicuramente fatto una grande squadra, investendo anche moltissimo e avendo risorse che noi ci sogniamo. Ho letto l'altro giorno i bilanci, proprio ieri o stamattina ho letto i bilanci della Juve, fatturano 220 milioni, ne hanno persi 50. Eppure paragonati al Real Madrid, che ha presentato nelle stesse ore il suo bilancio, a loro volta fanno impallidire. Perché ragioniamo su numeri da 500 e passa milioni. Bravissimo, qui siamo con la Juve a numeri, diciamo, di costi da 270 milioni, noi viceversa abbiamo un bilancio e un fatturato in Serie A di 45-50 milioni, quindi voglio dire, i numeri sono 1-5, 1-6, sono numeri molto sbilanciati, il tutto per fare di fatto la stessa cosa, perché devi fare una squadra di calcio che possibilmente ottenga risultati, quindi chiaramente sono comparazioni impossibili, però noi dobbiamo cercare di fare il nostro, nel senso investire come si è fatto e come faremo di più ancora sul nostro vivaio, cercare talenti all'estero e quindi avere una rete di osservatori sempre meglio strutturata. Diciamo che la cosa positiva è che da quando siamo ritornati e da quando io ho preso il Torino, sicuramente abbiamo investito sui giovani e oggi, se volessimo, potremmo mettere in campo anche una buona formazione di giovani con alcuni buoni talenti che possono fare bene, che sono già nel giro della prima squadra o del Torino o di altre squadre di Serie B, penso a Benedetti, allo Spezia, Comi, alla Regina che oggi ha anche fatto gol, ed altri ancora, o come a Stevanovic, Verdi, che sono nostri giocatori a metà. State tornando al passato, ai tempi in cui il vivaio dei Granata era uno dei vivai più importanti d'Italia, poi anche questa era una tradizione che si era un po' persa. Le chiedo una risposta flash prima di fermarmi un minuto per il traffico. È stata l'estate in cui due grandi come Inter e Milan hanno tagliato notevolmente le spese. Per Moratti e Berlusconi, secondo lei, è solo una pausa o è comunque la conferma che difficilmente Milano e il calcio italiano torneranno a comandare come è stato nell'ultimo decennio? Ma io credo che sia probabilmente anche un modo nuovo di fare calcio, che anche loro, diciamo, che hanno investito tanto e hanno vinto tanto, però poi avendo speso tanto, credo che si parli di valori circa di 1 miliardo a testa, insomma, sia pure in tanti tanti anni. Era necessaria un'inversione di tendenza? Ma più che necessario, probabilmente quando uno investe e spende, diciamo, 40-50 milioni l'anno, a un certo punto dice, avendo un fatturato importante, avendo un vivaio importante, probabilmente è meglio puntare sui giovani, è meglio evitare di fare degli investimenti, avere dei costi così elevati, prevalentemente che il costo degli stipendi, che poi ti portano a perdere delle cifre che in un momento economico come questo non è anche tanto. Sono inaccettabili. A tempo di sport. Di nuovo in diretta con Urbano Cairo, presidente del Torino, nel giorno di vigilia di Torino-Inter. Io ricordo i contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate o ancora 349 238 6666 per i vostri messaggi. Stavamo parlando, presidente, del fair play o comunque delle scelte di alcune società anche importanti italiane, Inter e Milan su tutte, di invertire un po' la tendenza delle grandi spese degli ultimi anni. Gli sceicchi di Parigi e Manchester, da questo punto di vista, sono nemici del calcio come tanti li identificano in questo momento o sono soltanto i nuovi ricchi scemi come spesso venivate definiti voi, presidenti italiani? No, semplicemente sono diciamo soggetti che si avvicinano al calcio praticamente senza avere esperienza ed evidentemente avendo invece una grande forza economica pensano di poter fare, come in alcuni casi talvolta fanno, ma magari non come vorrebbero, non velocemente come vorrebbero, di poter fare calcio semplicemente con la forza del denaro, che è una cosa, che è una forza evidentemente che c'è e che aiuta molto a ottenere risultati, però poi molto importante, io lo dico nel mio piccolo, diciamo, avendo fatto anch'io errori in passato e avendo pensato appunto che a volte servissero delle scorciatoie, tipo prendere il grande nome, il giocatore che aveva fatto i mondiali, piuttosto che in realtà è molto più importante, secondo me, lavorare nella costruzione di una squadra in cui ci siano alcuni elementi in qualche modo che sono da collante dello spogliatoio. Stanno buttando un po' via i soldi, ne hanno tanti, non hanno questo problema. Non voglio dire questo perché comunque sia fa piacere a volte di vendere un giocatore a quelle cifre a loro, però sicuramente sono delle fasi, anche a me è successo di fare delle cose di questo genere, poi piano piano cominci a capire alcune cose in più e fare calcio è... vuol dire veramente andare a prendere giocatori giovani, avere possibilmente allenatori bravi ad insegnare calcio, e io fortunatamente ne ho uno che ventura, e da lì poi tutto nasce creando possibilmente una squadra, uno spogliatoio forti che servono molto in momenti in cui magari le cose vanno meno bene, che accadono a tutti, anche alle grandi squadre. Quindi è molto importante, più importante investire sulla società. Anche un po' di programmazione. Bravo, esattamente. Domani ci sono a Torino gli osservatori di Ferguson per Ogbonna. Mi risponda con un sì o con un no, però sinceramente finirà anche lui all'estero perché non ce lo possiamo più permettere? Magari non l'estate prossima. Ma io diciamo che, come vede, no, di Ogbonna si parla da tempo, ormai da tanto che è concupito, conteso, eccetera, l'ho sempre tenuto con me. Sicuramente io però con lui ho una specie di patto d'amicizia, quando lui ha rinnovato il contratto per 5 anni con noi fino al 2016, gli ho promesso che se ci fosse l'opportunità della vita per lui e lui la considerasse tale e quindi la volesse cogliere, non sarò io a fermarlo. Spero però di poter offrire io a lui l'opportunità della vita, quindi per il momento le rispondo con un ni, nel senso che dipenderà anche da noi, da quanto noi sapremo fare bene e da quanto lui si sentirà sempre più coinvolto in un qualcosa che possa essere stimolante per lui. Ha seguito il dibattito intorno alle parole di Zeman, cosa ne pensa? Ha ragione Vialli che lo chiama paraculo per le sue battaglie, fa bene il tecnico a proseguire, in fondo ha fatto bene anche al calcio italiano? Ma secondo me credo che Zeman l'abbia anche pagato personalmente, diciamo, alcune sue battaglie, per cui insomma è un paraculo che poi alla fine si è parato poco, no? Per cui credo che Zeman vada stimato, poi non è che si possa condividere tutto quello che dice, ma certamente è uno che ha anche pagato le battaglie che ha fatto. Lei lo prenderebbe o no al Torino? Beh, io adesso ho un ottimo allenatore. No, glielo chiedo perché è un personaggio scomodo, ad esempio l'attacco che ha fatto a Finanza, Mondo delle Banche, dalla panchina della Roma, che in Italia certamente è la società che ha maggiori legami con Unicredit, col mondo della politica, è comunque un attacco che ad esempio in società a Roma non è stato graditissimo, lei la vede dalla visuale del presidente. Beh, diciamo che appunto io ripeto, sono contento con Ventura, poi è chiaro, secondo me è importante, una cosa importante è che, come dicono a Milano, o fele fa il tuo mestiere, pasticcere fa il tuo mestiere, cioè se Zeman è un allenatore di calcio, forse magari deve occuparsi più di campo che non invece di altre cose. Questo non ho neanche seguito la polemica, per la verità, quindi sono anche impreparato rispetto a quello che lui ha detto e sulle banche non le banche. Però secondo me, diciamo che a volte quando uno vuole parlare di troppo magari rischia anche di fare degli errori, nello specifico non so cosa ha detto, quindi in qualche modo sono anche impreparato a poter giudicare le cose. Certo, comunque quando dice che le squadre di calcio in borsa non sono un affare, dice probabilmente una verità guardando i dati. Questo ha detto questo, condivido al 100%. Il suo Torino non andrà in borsa, almeno in con borsa, Cairo. Ma per quale motivo? Io sono quotato in borsa con la Cairo Communication, la mia azienda editoriale, e con questa azienda ho ottenuto risultati importanti per i miei azionisti da un punto di vista anche di mantenimento dei valori, i dividendi dati, eccetera. Ma sicuramente una squadra di calcio in borsa è un grande rischio per chi ci investe a livello di essere un piccolo azionista. Quindi io non credo che sia un buon affare. Sicuramente io non investirei, io da piccolo azionista non investirei in una squadra di calcio, e io, diciamo, imprenditore proprietario del Torino, non voglio quotare il Torino perché secondo me non sarebbe un buon affare per i miei azionisti, a meno che non sapremo anche noi fare delle cose straordinarie riuscendo a produrre giocatori, plusvalenze e quant'altro, allora lo diventerebbe, ma sono pochi gli esempi dove la squadra di calcio è un affare. Grazie ad Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato un piacere. Anche per me, grazie a voi, a presto. Grazie Presidente, domani lo ricordiamo, la sfida tra Torino ed Inter. Rapidamente un aggiornamento sui risultati di Premier League, dove il Manchester City sta faticando, pareggia 1-1, siamo a 25 minuti dalla fine contro lo Stoke City. In trasferta vince 2-0 lo United contro il Wigan, 4-1 dell'Arsenal sul Southampton, sta pareggiando 0-0 il Chelsea fuori casa contro il QPR, mancano 25 minuti, Chelsea che sarà avversario della Juventus in settimana. In Bundesliga c'è da registrare la vittoria per 3-1 del Bayern contro il Mainz. In attesa delle vostre telefonate 800 24 0024, gli sms al 349 238 6666. Io saluto Francesco Caremani. Buon pomeriggio, Francesco. Buon pomeriggio anche a voi. Giornalista e scrittore che ha indagato sulla tragedia dell'Eisel, la ricordiamo purtroppo, l'abbiamo sulla pelle, 29 maggio 1985, 39 morti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, con cui in pochi minuti voglio parlare di quello che è successo in questa settimana invece in Inghilterra, dove il governo Cameron ha chiuso il lavoro di una commissione d'inchiesta, lo avrete certamente letto sui giornali, ammettendo le responsabilità delle forze dell'ordine e della stampa inglese in merito a un'altra tragedia in uno stadio, quella di Hillsborough del 1989, in cui morirono 95 tifosi del Liverpool. Scuse piene, senza alcuna attenuante. Che cosa è successo invece nei 20 e passa anni che ci separano dall'Eisel, Francesco? Beh, non parlerei di scuse, nessuno si è mai scusato. Devo dire che l'unico che l'ha fatto, almeno che io sappia pubblicamente, è stato Marco Tardelli in trasmissione da Minoli, La storia siamo noi. L'ha fatto appunto dopo 20 anni e so che la sorella di Andrea Casula, che ha perso appunto il fratello, la vittima più piccola, 11 anni, e il padre contemporaneamente a Leisel, è rimasta colpita comunque da queste scuse. Credo che sia rimasta colpita, come tanti di noi, per un motivo semplice, ripeto, perché in 20 anni nessuno si era mai scusato per quello che era successo. Dopodiché Tardelli era solo un giocatore della Juve, cioè le scuse dall'Inghilterra e dall'UEFA e dalle istituzioni belghe non sono mai arrivate. Ecco, ricordiamo che c'è un processo che si è concluso con una sentenza storica che ha inchiodato l'UEFA alle sue responsabilità, perché la stessa scelta dell'Eisel a Bruxelles era una scelta dal punto di vista logistico e della vetustà dell'impianto suicida. Però anche questa è stata una battaglia giudiziaria che tu spesso hai ricordato nei tuoi libri e nei tuoi articoli, è stata combattuta quasi nel silenzio, ad esempio, della stampa italiana. Perché è così difficile fare ammenda di quello che accadde a Bruxelles? Beh, difficilissimo, perché la vergogna che ha colpito i belgi, gli inglesi, l'UEFA è stata così forte, così grossa. Cioè, non ci dimentichiamo che in quel momento Juventus-Liverpool era considerata la finale del secolo, come se oggi ci fosse un Barcellona-Real Madrid, e quello che accadde per le modalità, oltre che in quel momento anche per il numero, fu considerata la tragedia del secolo. Ecco, di fronte a questa le autorità belghe, l'UEFA, sono state assolutamente incapaci di prevedere inizialmente e di prevenire al momento. Devo dire che però Hillsborough, o meglio quello che è successo appunto in Inghilterra questa settimana, ci dice anche un'altra cosa. Gli inglesi quella colpa e quella vergogna se la sono portata dietro per diversi anni, e purtroppo nemmeno loro, come differentemente si pensava, hanno imparato niente da quella tragedia, perché a Hillsborough, diciamo così, nel meccanismo, quindi nell'incapacità delle forze dell'ordine, in uno stadio che in quel momento non poteva contenere tante persone, si sono ripetuti alcuni, solo alcuni, dei meccanismi dell'Eisel. Questo per dire che il rapporto Taylor fondamentalmente nasce dopo Hillsborough, cioè gli stadi inglesi che ci sono oggi nascono dopo i loro morti, purtroppo non dopo i nostri. Se avessero imparato la lezione, se non si fossero solamente offesi perché appunto le squadre inglesi furono squalificate, perché i tifosi, anzi mi scuso, perché gli hooligans inglesi iniziarono a essere in qualche modo Additati per quello che erano. Riconosciuti, schedati, appunto, additati per quello che erano. Probabilmente, se avessero chiesto scusa, avessero reagito in maniera diversa, se avessero imparato quella atroce lezione che purtroppo però aveva colpito solamente noi italiani e non gli inglesi, forse non sarebbe mai si sarebbe capito. Potuto intervenire prima. Grazie a Francesco Caremani, giornalista, autore delle Verità sull'Eisel. Grazie Francesco. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per meteo e pubblicità, ma ci fermiamo con un frammento della telecronaca di Bruno Pizzul, il 29 maggio 1985, pochi secondi che già contenevano tanto della vergogna che ci accompagna da allora. C'ho accanto a me il responsabile della UEFA che mi conferma che ci sono 36 morti, mentre un'altra notizia che mi lascia piuttosto sconcertato è che la partita si giocherà. A tempo di sport. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati per i vostri tweet. Buon pomeriggio, benvenuto da Foggia. Buonasera, dottor Capuano, mi perdoni. Prego. Io ho 77 anni, mi toglie 2 minuti e mezzo, ci voglio, 2 minuti e mezzo. Anche qualcosa meno, però vada. Quando il Cagliari di Gigi Rive vinse lo scudetto del 1970, posso? Prego. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolto, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bortoluzzo per solo e breve cronaca del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto Cagliari? Sì, Bortoluzzo, sono in ascolto qui alla bicicletta di Cagliari, sta per iniziare il secondo tempo dell'incontro di calcio Cagliari Villa, tutte e due squadre tanto solo zero. Benvenuto, la fermo, lei è una memoria storica di quel Cagliari, però io 2 minuti e mezzo non glieli posso dare così, però la ringrazio perché è stato simpaticissimo, ci richiami magari in un momento in cui abbiamo più spazio. Io rispondo anche a chi al 349-238-6666 ci accusa di parlare ancora dell'Eisel dopo tanti anni, dicendo che non c'è nessun interesse. E invece io dico quello che è accaduto in questa settimana in Inghilterra dimostra che anche a tanti anni di distanza è giusto parlare di queste vicende, di queste tragedie, ed è soprattutto è giusto lavorare sempre perché venga fatta verità. Noi invece andiamo a parlare di quello che succede questa sera con Milan-Atalanta, con Allegri accerchiato, così almeno in settimana hanno scritto tutti i giornali, perché ha bisogno assolutamente di un risultato, ha bisogno di dare risposte a una tifoseria che non lo vede più come l'allenatore ideale per il suo Milan. Noi però tutto questo lo vogliamo verificare insieme a un tifoso milanista doc che in questo momento in Italia, ma in realtà vive negli Stati Uniti, è una stella dell'NBA. Io ringrazio e saluto Danilo Gallinari. Buon pomeriggio Danilo. Grazie a te, buon pomeriggio a voi. Sei in Italia, ti stai godendo gli ultimi scampoli di vacanza? Sì, sono in Italia, mi sto godendo questi giorni di vacanza con i miei genitori e a fine settembre penso di tornare in America. Tu stai facendo la spola tra Milano e Torino, sei in giro con l'Adidas, domani c'è l'ultimo evento del 3 contro 3 che ha portato tanti ragazzi in piazza a giocare a pallacanestro quest'estate. Insomma, è anche questo un modo per riavvicinare la gente alla pallacanestro, oltre alla nazionale che quest'estate ci ha riempito d'orgoglio? Assolutamente, sono eventi, iniziative che Adidas è particolarmente bravo ad organizzare, cercare di portare più gente possibile a avvicinarsi, anche riavvicinarsi alla pallacanestro, qualcosa che ogni estate si cerca di fare, abbiamo cercato di farlo con la nazionale, è venuto molto bene e quindi insomma sono molto molto contento. Oh, noi ti abbiamo chiamato però perché tu sei un grandissimo tifoso del Milan, te lo stai godendo visto che lo puoi seguire più da vicino? Assolutamente, me lo sto godendo e spero in queste settimane prima di tornare a Denver di riuscire a vedere qualche partita dal vivo. Questa sera vai contro l'Atalanta o no? Purtroppo no, però settimana prossima sarà un altro appuntamento importante in Coppa, penso di andare a quella lì. Quindi l'appuntamento è con l'Anderlecht, ma com'è la vita del tifoso per quanto di lusso emigrato a Denver? Devi mettere la sveglia, lo segui il Milan oppure è troppo difficile? No, riesco a seguirlo perché per la differenza d'orario che c'è, soprattutto le partite serali, essendoci 8 ore, riesco a seguirle appena finito l'allenamento nel primo pomeriggio, quindi è un orario anche abbastanza facile. Se non riesco a seguirlo, me le leggo sui notiziari il giorno dopo. Quindi il cordone ombelicale non si interrompe. Senti, cosa ne pensi di questo inizio di stagione? Ma un inizio sicuramente difficile, anche perché perdere la prima in casa non è mai bello, però penso che si sia ripresi subito con la seconda a Bologna, penso sia un anno di transizione, insomma abbiamo cambiato tanti giocatori e quindi insomma vediamo un po' come va, ma ci deve essere anche tranquillità se magari si perde qualche dall'inizio. Mi sembra che tu la pensi un po' come Allegri e non la pensi come Galliani. Il dibattito, lo sai, è aperto e non solo tra i tifosi ma anche dentro la società. Sì, immagino che il dibattito sia aperto, anche perché insomma cambiare così tanto in un'estate, è chiaro che poi ci sono dei rischi molto alti per la stagione dopo, però insomma c'è anche qualche giocatore giovane che ha la possibilità di crescere, soprattutto nella parte difensiva, e quindi insomma, bisogna dare tempo al tempo. Ti fa un certo effetto leggere sui giornali, come è capitato anche questa settimana, i nomi dei tanti possibili sostituti di Allegri se dovesse andare male, già magari a partire da questo ciclo di partite, Costacurta, Inzaghi, Tassotti, Donadoni, Gullit, che si è quasi auto-offerto, cioè sono nomi che per voi tifosi del Milan magari hanno grande significato per i ricordi legati al passato. Certo che trovarsi a metà settembre già a discutere di una possibile successione di Allegri fa un certo effetto. Sì, fa un certo effetto, non è una cosa, quando capita nelle squadre di pallacanestro, è capitato a me di provare questa cosa in persona quando ero in Italia, con i cambi di allenatore non è mai facile neanche per i giocatori. Io penso che bisogna sempre dare al tempo, bisogna ricordarsi anche che Allegri è allenatore che il primo anno ha vinto uno scudetto, quindi insomma bisogna dare spazio e anche tranquillità, secondo me. Quindi vediamo, chiaramente non è neanche facile per la società e per il dottor Galliani fare delle scelte in questo momento sull'allenatore. Io ricordo agli amici milanisti, se vogliono scrivere 800 24 00 24 per telefonare, 349 238 6666 per gli sms. Quest'estate, Danilo, quanto ci sei rimasto male per gli addì di Ibrahimovic e Thiago Silva? Beh, insomma, sono due campioni del genere che ci hanno dato tanto, penso soprattutto il discorso di Thiago, che comunque almeno per un poco esperto come me è uno dei migliori difensori al mondo, secondo me, quindi non è stato facile, però allo stesso tempo capisco anche la società, perché a livello di soldi e di business è una cosa che ci ha portato tanto, quindi speriamo di riuscire a ritrovare due campioni del genere, magari in ragazzi giovani che possono crescere, magari anche italiani. Ma tu fossi stato un normale abbonato, avresti chiesto il rimborso, l'hanno fatto in 72 alla fine. O la passione per il Milan, la fede deve essere superiore anche a queste delusioni di mercato e magari anche a un po' di confusione dal punto di vista della comunicazione? Ma sinceramente no, perché la fede deve andare oltre queste cose qui. È chiaro che bisogna anche mettersi nei panni sia dei tifosi, ma anche nei panni delle persone che sono in società e vivono al telefono tutti i giorni per fare il meglio per la squadra e per la società. No, bisogna un po' capirlo Galliani, che tra l'altro raccontano le cronache, ma l'aveva già fatto con Kakà, ha anche versato qualche lacrima firmando i contratti di cessione di Ibrahimovic e Thiago Silva. Ascolta, Ibrahimovic ha detto Parigi è meglio di Milano, e tra l'altro ha detto anche che a Parigi lui può vincere la Champions. Vi fa un po' un effetto strano? Vi dà un po' fastidio? Ti dà un po' fastidio da tifoso del Milan? Ma non mi dà fastidio, nel senso che sicuramente hanno una squadra molto forte e hanno investito tanti soldi, quindi sicuramente hanno tutte le carte in regola per fare bene sia in Francia che in Europa. C'è qualcuno dentro il Milan che accende un po' la tua fantasia da tifoso o no? Ma secondo me c'è una squadra che ha la possibilità di costruire una gran chimica. Secondo me sono giocatori che magari non c'è il talento della situazione che ti può risolvere una partita, secondo me, ma ci sono tanti giocatori che assieme possono fare qualcosa di importante, quindi è molto importante costruire le sinergie giuste. Per chiudere, detto che torni a fine settembre a Denver, cosa ti aspetti dalla stagione? L'anno scorso avete fatto il primo turno dei playoff, penso che quello sia l'obiettivo minimo da cui ripartire? Sì, l'obiettivo è quello di andare in playoff come tutti gli anni, come ben sanno gli esperti pallacanestro, la Ovest è molto più difficile che a Est e con gli movimenti che ci sono stati è diventato ancora più difficile, quindi noi siamo più forti l'anno scorso, ma sono squadre che sono più forti anche loro, quindi è sempre più difficile, l'obiettivo è quello di arrivare in playoff. Tu hai fatto un'estate meravigliosa con la nazionale, avete fatto l'in-plan in queste qualificazioni, siete un po' un modello anche per l'Italia di Prandelli, in fondo siete due nazionali che ripartono con un ciclo nuovo, a Prandelli, Prandelli sta incontrando qualche difficoltà, voi siete la dimostrazione che si può far bene anche magari lasciando a casa, nel caso della pallacanestro ovviamente per motivi di causa maggiore, però qualche grande nome. Assolutamente, assolutamente, noi abbiamo fatto qualcosa secondo me di speciale, un record che era tantissimi anni che non capitava, insomma è chiaro che a livello europeo diventa fondamentale il gruppo e noi con questo gruppo siamo stati veramente bravi, ma sicuramente il Mago e il Peli per l'estate prossima diventano fondamentali. Sì, anche perché immagino che guardare le Olimpiadi dal divano ti abbia dato non poco fastidio. Molta rabbia, quindi vorrei... Esperienza da non ripetere. No. Esatto. Grazie Danilo Gallinari. Grazie a voi. Grazie dunque a Danilo Gallinari. Allora, noi ci fermiamo per il traffico, poi torniamo e vi facciamo sentire alcune delle voci di questo sabato di vigilia. Molti, molti tecnici arrabbiati. A tempo di sport. Sull'importanza della memoria dell'Eisel, adesso sentiamo Marco da Trento che in quello stadio c'era e ne vuole parlare. Io vi ricordo 800 24 00 24 per le vostre telefonate, come ha fatto Marco, e poi 349 238 6666 per i vostri sms. Buon pomeriggio Marco. Sì, buon pomeriggio. Prego. Allora, io c'ero, due considerazioni. Uno sul fatto che la partita secondo me è stato giusto che si fosse giocata. Diversamente sarebbe venuto fuori, molto probabilmente sarebbero venuti fuori altri morti, perché sarebbe venuta fuori una guerra. Solo per ordine pubblico però, io ho sentito parlare di scuse da parte di chi ha avuto effettivamente delle responsabilità, ma secondo me la Juventus quella Coppa non la doveva ritirare. Io c'ero lì, ma quella Coppa non la considero vinta. Anche in ritardo sarebbe bello dire che in nome di quelle persone che non ci sono più, quella Coppa non rimanga non assegnata per quell'anno lì. Non resta so comunque una ferita aperta. Io condivido abbastanza il suo pensiero, Marco, la ringrazio per averci chiamato. Questa è un tema di discussione purtroppo da quel giorno, perché i più anziani ricorderanno, ci fu anche uno scontro durissimo tra Boniperti, la Juventus e la Gazzetta dello Sport, che nelle settimane successive alla finale dell'Eisel fecero questa stessa richiesta alla società torinese senza però ottenere alcuna risposta. Io saluto Nedo Sonetti, buon pomeriggio Nedo. Buon pomeriggio. L'abbiamo chiamato perché fra un quarto d'ora in campo ci sono Palermo e Cagliari, che sono le squadre di Zamparini e Cellino, l'avrete letto tutti, sono i due mangia allenatori per definizione. Ebbene, Nedo Sonetti insieme a Daniele Arrigoni e Davide Ballardini è l'unico tecnico italiano ad aver lavorato con tutti e due, ed è sopravvissuto, questa è una notizia, Nedo. Sono sopravvissuto, dopo diverse peripezie ce l'ho fatta, insomma, no? Sono due elementi particolari. Ti faccio sentire Beppe Sannino ieri alla vigilia di questo Palermo-Cagliari, 30 secondi. Perché da quando sono venuto qui a Palermo è stato sempre delicato, la vostra domanda è stata sempre: quanto duri, dove vai, cosa fai? Io non rispondo a questa domanda perché ormai è inflazionata, credo che comunque sia forse un po' il male di Palermo, forse voi... Io non voglio fare la morale a nessuno, ma credo che a Palermo fare allenatore... Credo che sia la cosa non tanto difficile sul campo ma fuori, perché appena uno è ingaggiato al Palermo il vostro unico obiettivo è quanto è delicato, quanto è dura, quanto duri, e questa è la vita qui a Palermo. Secondo me un allenatore deve essere in grado di fare il proprio mestiere, andare in campo, fare il proprio lavoro. Alla fine c'è una società che decide secondo quello che si aspettava una persona, va bene o non va bene, chiuso, stop. Non benissimo Sonetti, Beppe Sannino, a livello di sopportazione del livello di tensione in questa vigilia in cui è già messo in discussione. Ma sai, andando a Palermo oppure a Cagliari la situazione è abbastanza semplice. Sappiamo che ci sono di queste problematiche, lì non è una questione di società, lì è questione di Zamparini come persona ed è una questione di Cellino come persona, nel senso che le società sono loro due che determinano, fanno, brigano, prendono, mandano via e tutto così. Cosa sono? Umorali? Sono persone che hanno scelto comunque uno stile diverso di portare avanti le loro società, anche produttivo, perché Palermo e Cagliari comunque rimangono in Serie A da tanti anni e ottengono anche risultati. Sì, ma è produttivo, siamo d'accordo, ma bisogna vedere se con un altro atteggiamento non potrebbe essere più produttiva la situazione sia di Palermo che di Cagliari, perché sono due persone che in fin dei conti di calcio ne capiscono, solo che insomma quando perdono vanno fuori di testa, quando perdono non riescono a razionalizzare le cose e quindi prendono delle decisioni affrettate, sono umorali. Davvero Sonetti è stato il primo allenatore italiano licenziato per giusta causa, abbiamo letto nei mesi scorsi della spigola di 4 kg che a Cellino non era andata giù. Vabbè, ma queste sono una delle tante barzellette di Cellino, insomma, no? Sono delle bischerate che poi dopo insomma le pagò anche questo signore qui, perché sono delle sciocchezze che lui mette in giro e che praticamente poi gli ritornano contro. È anche certe abbastanza scaramantico Cellino, è anche scaramantico Cellino. Ma digli che la sua scaramanzia se la tenga per conto suo, insomma, no? È vero che nello sport c'è anche scaramanzia, ma oltretutto, soprattutto, ci vuole grande coerenza, grande intelligenza e grande serenità nel giudicare le cose. Ti è rimasto un po' il dente avvelenato, mi pare. Hai mai sentito Cellino suonare? Io sono avvelenato con le persone, avvelenato le persone che insomma trattano gli allenatori in questa maniera, che è una maniera assurda. Non c'è verso. Nedo Sonetti, hai mai sentito Cellino suonare? No, ma lasciamo perdere. Te lo faccio sentire per qualche secondo. Questo è Cellino da Sky. Ti voglio chiedere per chiudere, tra Sannino e Ficcadenti, scherzando, chi salta per primo quest'anno? No, ma questo ha ragione Sannino quando dice che è mai possibile che voi giornalisti vi prendete la briga di sostenere queste cose qua. Invece di fare scudo nei confronti dei professionisti che stanno lavorando, voi invece scimmiottate tutto questo problema. Ma non mi sembra mica giusto. Però lo dicono i numeri, Sonetti. Ma cosa vuoi che ti dica io se praticamente va via prima Sannino oppure Ficcadenti? Io non ti dico assolutamente niente, ti dico soltanto che il loro comportamento, perlomeno fino ad oggi, è sempre stato deleterio, ma diventa deleterio anche per loro. Mi racconti di Zamparini e poi chiudiamo, se i suoi giri in taxi durante la partita fanno parte della scaramanzia o se invece è un modo di vivere umoralmente il calcio e la partita che poi forse si riflette anche nel modo di condurre la società. Sì, vabbè, ma insomma dei giri in taxi di cosa di Zamparini, insomma, ma no, non mi interessa assolutamente niente. Scusate che sono abbastanza brusco, perché queste qui sono cose che a me non interessano. Se volete, se si parla di calcio, volete parlare di calcio, sono perfettamente a vostra disposizione. Se si deve parlare di queste sciocchezze, io praticamente non ci sto. Va bene, comunque Palermo e Cagliari sono due squadre che al di là del destino che sarà dei loro allenatori, restano comunque due progetti interessanti. Questa sera, ad esempio, dovremmo vedere in campo Dybala, che in fondo è uno dei giocatori più pagati da squadre italiane in questa sessione di mercato. Quindi va seguito con attenzione. Va bene, insomma, lo seguiremo con attenzione, insomma, no? Vedremo quello che saprà fare, quello che succederà. Insomma. Va bene, grazie Nedo Sonetti. Va bene, buon pomeriggio e buona partita. Ciao. Allora, per andare verso la giornata di domani, sentiamo Zeman sulle polemiche e sull'intervista che ha fatto scalpore con il suo attacco ad Abete. Ma io penso l'intervista no, poi qualche titolo che si è sparato due giorni prima che è uscita intervista, forse sì, ma io ripeto, io quelle tre parole che erano lì non li pensavo così come sono uscite. Io ripeto, poi me li rimangio il senso che avete capito voi. Io continuo a dire che per me nel calcio federazione in questi anni poteva approfittare di tante situazioni per cercare di migliorare. Ecco, e non era personale, era... E adesso invece Carrera sul turnover in vista della sfida contro il Chelsea di Champions League. Turnover non è una parola giusta, noi non abbiamo né titolari né riserve. Metteremo in campo ogni partita la formazione migliore, quindi i ragazzi che ci danno più garanzie. Penso perché per un giocatore sia importante giocare la partita, che sia Genoa, che sia Juventus Stabia, che sia Canicattì, quindi l'importante è giocare la partita e cercare di fare il possibile per far vincere la sua squadra, quindi che sia di campionato, di Champions, penso che non faccia differenza per questi giocatori. Intanto sono finite le partite del pomeriggio in Premier League: 6-1 dell'Arsenal sul Southampton, 4-0 del Manchester United sul Wigan, ha pareggiato il City fuori casa contro lo Stoke 1-1, ha pareggiato 0-0 anche il Chelsea fuori casa contro il QPR. Questa è certamente una buona notizia per la Juventus. Noi ci fermiamo qui, torniamo domani a partire dalle 16.30 fino alle 19 per raccontarvi tutto il dopo partita della giornata di Serie A, e non solo, perché parleremo anche del Gran Premio di motociclismo. Oggi nelle prove primo Pedrosa, secondo Lorenzo, sesto il nostro Valentino Rossi con una delle migliori qualifiche della stagione. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Appuntamento con A Tempo di Sport domani per le 16.30.